Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo, sintesi del libro Islam, dottrina e prassi. Capitolo primo. La concezione islamica della vita. La dottrina islamica della vita, dell'uomo e del mondo, non solo non concepisce un conflitto tra l'aspetto spirituale e l'aspetto materiale della vita, ma neppure una separazione. Infatti, la sfera normativa del codice di vita, dato all'uomo da Dio, che della vita dell'uomo e del mondo è il creatore, si estende a tutti gli aspetti dell'esistenza umana. Il modello di vita dell'Islam, nella visione del mondo rivelata dal Creatore, si basa sulla concezione unitaria dell'uomo ed è il risultato di una sintesi equilibrata e armonica di regole di vita spirituale e materiale.